di tuo fratello al pari sarei contento anch'io, se certo fosse di sposarti un giorno. Forse dubiti ancora della mia fedeltà, dell'amor mio. Unico, mi fido a te, via, non segnarti. Figlio di me.